Dialog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Sono trascorsi 35 anni da quel tragico giorno che non fu solo il dramma di un uomo e di una famiglia, ma dell'intero paese. In Aldo Moro, il terrorismo brigatista individuò il nemico più consapevole di un progetto davvero riformatore. Vedo Paolo Freiese, che è uno dei nostri colleghi che è andato sul posto. Sta arrivando saranno le immagini che abbiamo ripreso al Trionfale. Via Stresa, sì. E sono 4 i morti, sono lì, 2 nella macchina, nella prima automobile. Sta arrivando? Scusate, l'audio. Aspetta. Via Stresa è una strada in una zona residenziale di Roma, Viale Camilluccia. Sono le 10:10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. I carabinieri della polizia stanno girando. Ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri. Andiamo ad avvicinarci per cercare di capire ciò, di capire meglio. Era il 16 marzo del 1978 e fu rapito Aldo Moro. Ne ho qualche memoria, che ero già grandicello. Allora non c'era internet, non c'erano i notiziari televisivi così frequenti. Correvamo nelle cabine della SIP facendo un numero per sentire le notizie, capire cosa fosse successo. Sembrava qualcosa di impossibile, imponderabile, mai visto prima. Lo ha ricordato il neo presidente del Senato Pietro Grasso. Non ne vedo grande traccia sui giornali, ma posso anche capirlo. Sono successe tante cose, c'è stato il nuovo Papa, ci sono i grillini, c'è Grillo, ci sono le dispute, ci sono tante vicende, c'è la crisi. Ma questa mattina vorrei tornare su una vicenda di 35 anni fa, con dei punti ancora molto oscuri, mai chiariti, volutamente mai più tirati fuori nel corso degli anni, perché sono una sorta di imbarazzante fardello per tutta la Prima Repubblica, con qualche strascico anche nella Seconda Repubblica. E bene o male, in un momento in cui anche solo parlare di trattative fra lo Stato e poteri che per loro costituzione sono antitetici allo Stato fa gridare scandalo, questa mattina voglio tornare e riportare all'attualità la vicenda Moro, perché è uscito proprio oggi un libro di un giornalista di Radio Rai, Alessandro Forlani. Il titolo è La Zona Franca, editore Castelvecchi. Questo libro spiega qualcosa di cui si è sentito parlare vagamente, a sprazzi, che ormai sembra uscito dall'interesse generale. Questo libro spiega che ci fu una trattativa molto articolata, una trattativa con 4 grandi filoni che analizzeremo questa mattina, tra Stato e Brigate Rosse, con varie intermediazioni, perché Moro fosse liberato. Ma il sottotitolo di questo libro è Così è fallita la trattativa segreta che doveva salvare Aldo Moro. E perché è fallita questa trattativa segreta? Ce lo spiega questa mattina Alessandro Forlani. Alessandro, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Alessandro, piccola premessa, devo farle doveroso, ma è dovere di cronaca. Io avrei voluto questa mattina gloriosamente protagonista del frutto di 10 anni di tuo lavoro. Questo libro ti è costato 10 anni. Sono 10 anni che analizza con una cura certosina tutti i documenti possibili e immaginabili, le fonti, per aver fatto un libro, secondo me, assolutamente unico rispetto a quanto si è detto e scritto su Moro. Ma Alessandro è stato chiamato da tutti i colleghi della stampa di tutto il mondo perché è stato protagonista di uno di quegli episodi che tanto piacciono ai giornalisti. Lui era sabato, assieme a altri 5.000 colleghi, all'udienza che il nuovo Papa Francesco ha fatto con i giornalisti. È entrato con il suo cane da cieco, perché lui è cieco, Asià, un Labrador. All'inizio gli hanno fatto qualche storia, ma dove vai con questo cane? Poi l'hanno fatto accomodare in un angolino. Il Papa l'ha visto, l'ha chiamato, ha dato una carezza al cane, e la foto del Papa che accarezza il cane ha fatto il giro di tutti i giornali del mondo. Diciamo che io non è che sono io il protagonista, i protagonisti sono appunto Papa Francesco e il cane. E il cane, sì, io sono un po' lo strumento. Però il cane si è in mancanza po' di lupi, di Gubbio, esatto. C'è stato il tuo cane. Il cane si è un po' montato la testa e stamattina appunto ha pensato di stare a casa. Però se noi pioggia. Vogliamo dare retta a delle coincidenze significative. Era il giorno dell'anniversario del rapimento di Moro, tu avevi il tuo libro fresco di stampa in tasca e ne parliamo questa mattina. Sì, diciamo appunto, per chi non è religioso, non crede nella provvidenza, negli angeli, c'è comunque l'inconscio collettivo, no, di cui parlava Jung, quindi è possibile che le energie, diciamo, per chi non crede, le energie mentali, no, si solidificano in questo inconscio collettivo. Andiamo al punto. Allora, viene rapito Aldo Moro. Cosa accade nel nostro paese all'improvviso? Allora, Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse, sottolineo. Le Brigate Rosse vogliono, dicono esplicitamente che l'obiettivo è l'insurrezione armata generale, cioè la rivoluzione. Quindi loro non è che vogliano fare una trattativa, vogliono fare il processo popolare, fanno questo processo. Dopo un mese, il 15 aprile, annunciano che il processo è finito, che l'ostaggio ha confessato tutto quello che, quelli che sono i retroscena della politica stragista, stragi di Stato, e le multinazionali, imperialismi, tutto quello, certo, che ci doveva stare, che ha appunto, che queste, tutte queste cose verranno rese note al popolo, e che, che l'imputato è stato condannato a morte. Questo il 15 di aprile. E due o tre giorni dopo invece cosa accade? Accade questa stranissima coincidenza di due eventi. Alle 9:30 di mattina viene ritrovato un volantino, che poi si scoprirà essere falso, in cui le Brigate Rosse annunciano che Moro è stato ucciso ed è nel lago della Duchessa, in provincia di Rieti. E non solo, poi si dice che anche altri faranno la stessa fine tramite suicidio, perché c'è scritto che Moro è stato ucciso tramite suicidio, un po' una cosa strana. Cioè gli hanno dato una pistola e hanno detto sparati. È chiaramente un riferimento ai suicidi tedeschi, no? Perché poi si parla appunto, la Bader-Meinhof, sì, nelle prigioni tedesche. Quindi è un messaggio ambiguo, che sappiamo che non sono stati i brigatisti a scriverlo, no? Quindi è un messaggio ambiguo, state attenti, farete la fine di quelli della Bader-Meinhof. E poi contemporaneamente si allaga un covo dove abitava il capo delle Brigate Rosse, Mario Moretti. Vengono chiamati subito i giornalisti, quindi fa anche qui il giro, non so se del mondo, come la foto del mio cane, però allora senz'altro su tutti i TG nazionali, questo covo con armi, targhe, divise, le stesse divise dell'Italia che erano state usate per il rapimento. Quindi c'era tutto quello che serviva per sì, giustificare la presenza, anzi per notificare la presenza dei brigatisti. Ma come mai questo covo si allagò? Quale fu la causa? I brigatisti dicono che fu una dimenticanza, che la persona che stava lì con Moretti, la compagna brigatista, era una persona molto sbadata, quindi dimenticò aperto il rubinetto. In realtà questo rubinetto venne trovato proprio appoggiato al muro, a una fessura, con uno scoppettone che lo teneva fermo, quindi si pensa sia stato un gesto intenzionale. Ecco, dietro questo episodio e tanti altri tu analizzi, si è arrivato a una conclusione che in realtà non fu semplicemente quello che veniva raccontato, figuriamoci poi allora cosa erano i mezzi di informazione ufficiali già rispetto a oggi, ma ci fu una intensa, articolata, variegata trattativa tra Stato e Brigate Rosse perché Moro fosse liberato. Riassumi quattro filoni, allora, principali. I contatti, appunto, qualcuno tentò già subito di avvicinare le Brigate Rosse nei primi giorni, però loro appunto respingevano perché volevano semplicemente fare questo processo popolare. Poi dopo il 18 aprile, due giorni dopo, sono le stesse Brigate Rosse a dire trattiamo, e lanciano questo famoso appunto comunicato 1 a 13, no? Quindi rilasciate 13 terroristi e noi appunto scarcereremo Moro, cosa ovviamente assurda, è una richiesta altissima, però in genere il negoziabile era, diciamo. Ecco, il primo passo della trattativa si fa sempre così, no? Moro era già fin dalla prima lettera che invece chiedeva lo scambio 1 a 1, no? Allora, in questi giorni, in questi ultimi, diciamo, giorni, questi ultimi 20 giorni, vengono stabiliti dei contatti. C'è una trattativa che è quella del Partito Socialista, che è nota, su cui si è scritto molto, su cui è stato incentrato. Sì, fu palese. Ecco, Craxi la dichiarò. La compì Perno e Pace. Sì, diciamo. C'erano questi due giornalisti, attivisti, insomma, dell'estrema sinistra, che contattavano queste persone delle Brigate Rosse e poi andavano a parlare con gli esponenti del Partito, diciamo, Socialista. Diciamo che fu chiaro, è chiaro tuttora, ci fu una cerniera fra, diciamo, una sorta di intelligenza a piede libero e quelli che erano, diciamo, i rappresentanti del partito armato. Se fu così facile che Piperno e Pace potessero, su richiesta, prendere contatto con i brigatisti, vuol dire che la cerniera c'era. Loro contavano su questo appunto per la rivoluzione, però quando poi si vedono che un loro covo viene allagato, no? Che c'è questo messaggio trasversale fortissimo, questo messaggio come dire criptico, però con un significato molto forte per loro: guardate che farete la fine di quelli di Stan Meim. Allora loro accettano di trattare, c'è questa trattativa, ma poi ce ne sono altre, c'è quella portata avanti dal Vaticano. I socialisti... Il Vaticano aveva pronto un bel malloppone da dare di soldi. Sì, aveva quanto pronto, si dice? Si dice 25 miliardi di lire, è una cifra per l'epoca, se pensiamo che un dollaro valeva 500 lire. Comunque già ai tempi potevano uscire tranquillamente 25 miliardi dalle casse del Vaticano senza batter ciglio. Sì, questo al nero totale, naturalmente. Beh sì, quello è ovvio. E... velocemente altre due, c'è un ospite che deve intervenire e poi deve andare via. Quali furono le altre due? Fanfani doveva, appunto d'accordo con i socialisti, il 9 maggio proprio dire che la DC accettava questa trattativa, e poi c'era questa pista jugoslava con Tito, che era leader dei paesi non allineati, che avrebbe riconosciuto le Brigate Rosse e scarcerato 3 terroristi tedeschi. Però tutte queste palle dovevano andare in buca tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio del 9 maggio. Le Brigate Rosse, pur sapendo tutto questo, uccidono l'ostaggio prima. E quindi la zona franca è quello che accade? La zona franca è quello che accade, è questa situazione appunto di cambio totale. Assenza di potere, per così dire. Cioè, tra l'annuncio, poi le Brigate Rosse, dopo aver ucciso Moro, chiamano appunto a casa di un amico di Moro per dire che il cadavere è in via Caetani. E quanto passa prima che trovano il cadavere? Il cadavere a quanto pare viene trovato subito dalle forze speciali, perché io nel libro intervisto il ministro Claudio Signorile, che era con il ministro Cossiga al Viminale, e dice di aver sentito in pratica in diretta questa telefonata, e che subito qualcuno andò e disse effettivamente il cadavere è della nota personalità, cioè di Moro. Però prima che la notizia venga divulgata passa più di un'ora e mezzo. Fermati un secondo, sentiamo l'annuncio. Questa è la telefonata nota di Valerio Murucci che indica... Sono delle indicazioni chiarissime, sì. No? Come vediamo, quindi non è che ci vuole tanto tempo per identificare. Però è passato una del tempo. Diciamo che le prime riprese le fece un operatore dell'allora GBR, per puro caso si fece quasi ricco vendendo poi tutte queste riprese. Abbiamo al telefono Franco Mazzola. Franco Mazzola, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senatore. Senatore Mazzola è sottosegretario alla difesa nel 78, autore di un romanzo sugli anni di piombo, I giorni del diluvio, Aragno Edizioni. Anche lei in quel periodo aveva un ruolo molto importante istituzionalmente. Può confermarci, secondo la sua esperienza, quello che vide, quello che seppe, che ci fu realmente una trattativa per la liberazione di Aldo Moro e che qualcosa la interruppe in maniera inspiegabile e la situazione si rovesciò completamente? Sì, io confermo esattamente quello che ha appena detto Forlani, se non ricordo male. Chi è che ha parlato? Sì, sì, Forlani. Forlani, col quale io sono in rapporto da tempo. È esattamente quello, cioè, c'erano 3 firme di trattative, le Brigate Rosse lo sapevano. La cosa incredibile è che 2 ore prima che si riunisse la direzione democristiana, che avrebbe dovuto fare 3 cose. Primo, convocare il Consiglio Nazionale, così come era stato chiesto nella famosa lettera a Misasi delle Brigate Rosse, quindi convocare il Consiglio Nazionale per prendere atto che si era aperta una fase di nuova nel sequestro, con il Vaticano che aveva stanziato, adesso io non so se 25, a me risultava 10 miliardi. Comunque la cifra non è sicura, nel senso che siccome è segreta, chiaramente si può dire di tutto, comunque tanti soldi. Una cifra enorme, in ogni caso, una cifra enorme. Che, terzo, c'era il Presidente della Repubblica, come si dice, con la penna in mano, pronto a dare anche una grazia a un brigatista che non si era macchiato di delitti di sangue, quindi e poi c'era l'azione di Tito che avrebbe dovuto portare, come ha detto esattamente, alla scarcerazione di Cretello. Ma chi teneva le fila di tutte queste trattative? E questo io non lo so, perché io sono stato sottosegretario dei servizi di sicurezza, ma dopo il sequestro Mongolo. All'epoca io avevo la delega dell'Arma dei Carabinieri, partecipavo alle riunioni al Viminale, ma nelle riunioni ufficiali del Viminale non si disse niente di questo. Però in queste riunioni al Viminale, diciamo, chi è che teneva le fila, nel senso che era colui che dava le direttive? Lei da chi prendeva direttive precise in quel periodo? No, io non prendevo direttive se non dal presidente Cossiga, perché avendomi dato il ministro Ruffini, che era ministro della difesa, io ero sottosegretario di difesa, la delega a rappresentarlo in tutta la trattativa al Viminale, io prendevo direttive esclusivamente dal presidente Cossiga. Quindi Cossiga naturalmente era al corrente di tutto e seguiva certamente. Però ecco, Gianluca, scusa se ti interrompo, vorrei chiedere una cosa al sottosegretario Mazzola. Siccome una delle ipotesi che si fanno, no, è che ci sia stata una cattiva comunicazione, cioè che le Brigate Rosse non abbiano saputo, ecco, è possibile, io scrivo nel libro, che personaggi appunto come Tito, come Paolo VI, come Cossiga e Andreotti, che sapevano, no, si muovano senza essere sicuri che poi il canale informativo abbia, diciamo, no? E qual era poi questo canale alla fine? Io questo non glielo so dire, perché ripeto, non ne sono a conoscenza, però quello che mi determina a pensare, come io poi ragionando ho pensato e come ho scritto, sia pure in forma romanzata nel mio libro, io ho pensato che ci fosse una eterodirezione, che chi etero dirigeva le Brigate Rosse attraverso qualcuno che era all'interno e che evidente, secondo me poteva essere, non poteva essere che Moretti, abbia deciso di chiudere la cosa prima che la cosa prendesse una piega definitiva che portasse poi alla liberazione di Moro, cioè che quello che alla fine veramente si volesse fosse la fine di Moro. Ecco, ma lei si è fatto un'idea chi fosse, l'aspetto che dirigeva la colonna Moretti, tanto da interrompere la trattativa e dice no, ammazziamolo, anche se è tutto pronto per avere, poi avevano soldi, riconoscimenti ufficiali, brigatisti liberati, insomma avrebbero avuto un risultato politico fortissimo. Lo so che è così, difatti anche lo stesso presidente Cossiga in interviste successive, di cui una al Corriere della Sera, di cui adesso non ricordo la data, dichiara anche lui la sua che è inspiegabile questo fatto, cioè che le Brigate Rosse, che avevano praticamente vinto, abbiano compiuto questo fatto diciamo 2 ore prima che la prima sanzione ufficiale, che era la Direzione Democristiana, si riunisse. Quindi erano tutti sicuri che le Brigate Rosse avrebbero consegnato Moro, avrebbero incassato il frutto del loro atto. C'è un piccolo particolare che io rivelo, scusi senatore, lei si ricorderà dell'onorevole Cazzora, no? Che aveva tutta una sua mediazione, aveva contattato. Chi era l'onorevole Cazzora? Spieghiamolo. Era un deputato calabrese. Sì, no, era un deputato romano in realtà, romano, però di origine. Aveva rapporti con organizzazioni, diciamo così, della malavita. Lui aveva messo insieme tutta una serie, no, di rapporti. Quindi ci fu anche una trattativa con la malavita organizzata, con l'andrangheta, diciamo. C'era un contatto, anche io poi non so fino a che punto Cazzora fosse arrivato, però che Cazzora si muovesse in quella direzione, questo si sapeva. Diciamo che la piccola criminalità conosceva tante cose, no? Lui aveva fatto tutte delle sue, diciamo, piccole ricerche. Andò da Cossiga il 7 maggio per dirgli: guarda che una persona mi ha detto che sanno benissimo dov'è nascosto Moro. E Cossiga gli disse: guarda, smettila, basta, perché quello domani l'altro è libero. Cioè domani l'altro era il 9 maggio. Appunto. Di questo lei sapeva qualcosa, onorevole? No, di questo no. Di questo colloquio Cazzora Cossiga non mi ha detto mai niente. Però Cossiga era sicuro che sarebbe stato liberato, ma era data fatta. Lui appariva sicuro, sì, era abbastanza tranquillo. Tranquillo no, però aveva nutriva un certo ottimismo. Però diciamo, di fronte all'emergenza e dover liberare Moro, nessuno si fece mai scrupolo di andare comunque a trattare con una zona molto oscura rispetto all'integrità dello Stato. Un onorevole che va a trattare con la malavita organizzata, un altro che prepara i soldi, qualcun altro che trova degli emissari per trattare con le Brigate Rosse. Insomma, si fece veramente tutto quello che si poteva fare, però in una zona piuttosto limacciosa. Beh, in, in, situazione del genere diventa molto difficile agire, diciamo così, alla luce del sole e utilizzando soltanto il codice di procedura penale o la legge di pubblica sicurezza. Secondo lei a chi conveniva politicamente in quel periodo che in realtà Moro non uscisse mai vivo da questa esperienza? In Italia secondo me non conveniva a nessuno, conveniva all'estero. Io ho sempre pensato ai servizi dell'estero, ho sempre pensato al fatto che l'idea che un partito comunista andasse al potere in via democratica in un paese che al di là della cortina di ferro era una cosa che avrebbe rappresentato un pericolo gravissimo per altri paesi all'interno della cortina di ferro, che questa cosa la Russia sovietica non potesse accettarla. E quindi diciamo che a quel tempo i blocchi erano due, quindi o erano gli americani o erano i russi che hanno etero diretto. Per la verità anche gli americani non è che potevano essere molto felici, perché anche loro avevano dei dubbi nei confronti di questa E quindi secondo lei chi fu principalmente che mosse Moretti? I servizi segreti russi? Secondo me Moretti è stato mosso dai servizi segreti dell'est e secondo me particolarmente dalla Stasi, che in quell'epoca era un po' il braccio che l'Unione Sovietica utilizzava in tutte le operazioni. Ci fermiamo solo un secondo, onorevole, devo dare la linea all'informazione della borsa, riprendiamo fra un istante. Melog. La realtà condivisa. L'Unione Sovietica disapprova l'operato di Berlinguer, la cui politica è spesso oggetto di critiche all'ambasciata russa. Ma anche tra i democristiani sono in molti a non condividere le idee di Aldo Moro. Sono al potere dal 1945 e non vedono alcun motivo per condividerlo con i comunisti. All'ambasciata americana lo scetticismo è grande e i diplomatici si prodigano per impedire quella che la Casa Bianca considera un'alleanza inopportuna. Gli agenti della CIA sono molto attivi. Nei pressi dell'ambasciata c'è un albergo dove proprio il mattino del 16 marzo si sono riuniti i membri della P2, una loggia massonica segreta. Licio Gelli ne è il capo indiscusso. 800 24 00 24, stiamo parlando a 35 anni dal rapimento di Aldo Moro, di un libro che è uscito proprio oggi, è La zona franca di Alessandro Forlani, che ci racconta del retroscena finora inediti, perlomeno mai detti con questa completezza e con questa minuzia di particolari, rispetto alla trattativa che ci fu fra lo Stato, varie parti dello Stato, la Santa Sede, governi esteri, per la liberazione di Aldo Moro, trattativa che sembrava essere andata in porto a due giorni, anzi a due ore dall'uccisione di Aldo Moro, improvvisamente cambiò qualcosa. E ci ha detto, forse per la prima volta in maniera così esplicita, così diretta, a Radio 24 poco fa, Franco Mazzola, allora sottosegretario alla difesa, che ha anche scritto un libro su questo, che la trattativa ci fu. Tutti lo sapevano, lui che era a riporto diretto del presidente Cossiga era perfettamente consapevole che ci fu questa trattativa. Alessandro Forlani, qual è la novità di questo libro che tu hai scritto rispetto a quelle che erano voci, dicerie? Abbiamo sentito, questo è un documentario andato su Sky, su Planet TV, che racconta gli ancora più foschi retroscena, però nessuno aveva mai detto dati alla mano e con una storia documentata. E poi rispetto a quello che ci ha detto poco fa l'onorevole Mazzola, il senatore Mazzola. Allora, questo è un libro di testimonianze, cioè non è un libro per così dire scientifico, no? In cui si comparano tutte le prove documentali uscite nei vari processi, è un libro di testimonianze, alcune edite, già edite però magari in un trafiletto di ultima pagina di un giornale locale, un altro in una deposizione in tribunale che però è stata magari scartata, non è stata poi citata nella sentenza. Alcune cose invece inedite, tipo quelle che ha detto Mazzola, perché ad esempio della trattativa jugoslava alcuni cenni erano stati fatti, però nessuno aveva mai detto che la trattativa nel pomeriggio doveva essere chiusa. Cioè si diceva, anche così che aveva detto, sì, il Sismi andò in Jugoslavia per aprire una trattativa, però ormai Moro era morto. No, non è così, perché la trattativa quel giorno doveva essere chiusa. Questa è la cosa. Quindi, e soprattutto quello che era stato messo sul tavolo era pesantissimo per lo Stato, altro che linea della fermezza. La Santa Sede dava pacchi di miliardi, Tito aveva riconoscimento ufficiale dello Stato jugoslavo, quindi dell'internazionale, dell'internazionale, cioè, era comunista. Dei paesi non allineati, quindi. il presidente della Repubblica era pronto per firmare la liberazione di brigatisti non particolarmente colpevoli, diciamo, di assassini. Non si sa che cosa dovesse firmare, se un appello ai magistrati per scarcerare una persona oppure appunto una grazia, però comunque stava per firmare qualcosa in accordo con Fanfani. Appena Fanfani, che era il presidente del Senato, no? Avesse fatto questa apertura, allora c'era la sponda per il capo dello Stato per firmare senza l'accordo del Poi fammi capire una governo. Cosa, quando Paolo VI fece il famoso appello agli uomini delle Brigate Rosse, già stavano mettendo i soldi nel sacchetto per fare... Li avevano già pronti evidentemente i soldi, infatti... Quindi lui probabilmente era un avvertimento dire siamo pronti. Il fatto che il Papa dica liberatelo senza condizioni, lui intendeva dire senza condizioni politiche, come dire accettate i soldi. Pigliatevi i soldi. Ecco. E quindi, però questo poi loro hanno detto che non lo accettavano, loro volevano anche appunto la colonna politica, e la colonna politica di tutto quello che poteva mancare alle Brigate Rosse non mi sembra che i mezzi mancassero economici. Beh, senz'altro loro avranno avuto dei loro finanziamenti, però se c'hai ancora più ancora questi soldi in più ci puoi fare poi tante cose per la tua rivoluzione, no? Paolo Cucchiarelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Paolo. Paolo Cucchiarelli è un giornalista investigativo, anche lui lungamente ha ragionato e lavorato sul caso Moro, e anche Cucchiarelli forse è stato anche lui fra i primi che ha cominciato a portare concrete testimonianze e prove su questa trattativa. Il primo, sottolineo. Il primo in assoluto, sì, il primo in assoluto. Cucchiarelli, vediamo un po', sei d'accordo con la linea Forlani, cioè che ci fu questa trattativa articolata in quattro grossi filoni? Anche tu, diciamo, dal tuo lavoro hai dedotto le stesse cose. E rispetto a quello che ha detto poc'anzi il sottosegretario Mazzola, sei convinto che fosse così consapevole all'interno sia della Democrazia Cristiana sia dalle forze dello Stato, i poteri più alti dello Stato, che potesse essere giocato il tutto per tutto, altro che linea della fermezza, per liberare Moro? Assolutamente sì, ci sono testimonianze dei diretti protagonisti, quindi non si può più mettere in dubbio questo. Il libro di Forlani è un punto fermo proprio perché ha lavorato sulle testimonianze dei protagonisti, ma queste testimonianze stavano in parte, oltre al lavoro fatto da Alessandro, nel posto più segreto che si possa considerare in Italia, cioè sotto il naso di tutti. Nel tempo ci sono state decine di affermazioni dei protagonisti che dicono sì, abbiamo trattato, io personalmente ho incontrato l'ammiraglio Martini ormai molti anni fa, e lui mi raccontò per filo e per segno come era arrivato in Jugoslavia per andare a prendere i tre della RAF per poterli liberare quel giorno, il 9 di maggio. Quindi diciamo che faceva parte del pacchetto Tito, riconoscimento ufficiale. Era il punto fermo del pacchetto Tito, e un esponente socialista mi ha detto Martini ci aveva promesso che ci sarebbe riuscito, virgolette. Quindi diciamo che questi elementi sono tutti sanno tutto, ma nessuno vuole rompere la storia andando oltre e spiegare che cosa manca di fondamentale al caso Moro perché possa essere compreso. Però fammi capire, Cucchiarelli, morto Moro, fatti i funerali di Stato, fatte tutte le necessarie anno per anno. Guarda, io ho lavorato, il mio primo direttore è stato Corrado Guerzoni, quindi io ho imparato a fare la radio da lui, quindi ho lavorato con lui. Ogni anno ci mandava sotto la lapide di Moro a fare il pistolotto, il racconto su Moro. In questo libro c'è un capitolo proprio dedicato a Guerzoni. Cosa dice a Guerzoni? A noi io ci ho lavorato 10 anni, insomma, è riuscito a scucirgli una parola su questo. A te cosa disse? Perché c'è qualcosa di indicibile ancora sul caso Moro. Dicevo, tutti qualcosa... questi, dopo tanti anni, nessuno ha votato il sacco, sono stati tutti zitti. Ma se tutti sanno, nessuno può dire, perché in 35 anni la possibilità di raccontare, di varcare quella linea d'ombra che c'è sul caso Moro è stata offerta in tante occasioni a tante persone. Nessuno l'ha varcata, quindi evidentemente c'è qualcosa di veramente indicibile, di veramente... Senti, Cossiga, che fu il più loquace di tutti, il più estroverso, cosa ha messo Cossiga finché era in vita di questa cosa? Ma tante cose, ha detto che si poteva liberare, che l'avevano trovato, che sapevano dov'era. Sì, ma non ha mai detto tutto questo elenco di situazioni. Sì, ma l'ha detto nel tempo, in maniera omeopatica, come fa un politico, dice mezza parola qua. Magari mescolandolo con altre cose, ma fra l'altro Cossiga lo dice esplicitamente, Cossiga dice, e io lo riporto nel libro, che non dire la verità a chi non merita di saperla non è dire una bugia. Vabbè, una paraculata, scusa. Ho capito, però lui, e fra l'altro anche questa cosa di Cazzora, ad esempio, no, che io ho citato prima, Cossiga non è che la smentisce, Cossiga dice, io a un certo punto ho minacciato Cazzora di farlo arrestare se non smetteva. Quindi lui conferma questa cosa, per dire, anche se in modo diverso. Melog. La realtà condivisa. Moro aveva questo punto di vista sulla questione e certamente non era mica d'accordo sulla distruzione della Democrazia Cristiana, ma noi quello proponevamo come linea strategica e su questo differevamo. Era sulla questione dei prigionieri che Moro esprimeva un tipo di giudizio e di prospettiva già sperimentata con altri, in altri casi, come nel caso dei palestinesi, per esempio, lui suggeriva, che andava incontro alla possibilità di una mediazione. Moro era interessato sia alla prospettiva politica sia alla concretezza di una soluzione. Questa è un'intervista di Sergio Zavoli a Mario Moretti su Moro e su, ventilando labilmente possibilità di trattative, però come ci dice Alessandro Forlani che sta ascoltando, autore della Zona Franca, editore Castelvecchi, il libro in cui viene senza omissione di particolare, senza reticenze, spiegata tutta la trattativa che ci fu nelle sue varie diramazioni. Tra l'altro, ecco, le trattative, Gianluca, scusami, come diceva qui Moretti, c'erano state prima, c'erano state con Sossi, c'erano state con i palestinesi, ci saranno dopo con D'Urso e con Cirillo, ci saranno poi in Afghanistan per i prigionieri, ci sono state poi a quanto pare con la mafia, no? Sì, però tutti si strappano le vesti di fronte a questa cosa qua. Mi sembra che sia, come ci ha detto il sottosegretario Mazzola prima, in certe situazioni, quando si può andare per le vie ufficiali, si va a pescare nel torbido. Probabilmente poi successivamente ci sarebbe stata, non so, una soluzione politica, sarebbe intervenuto il Parlamento in qualche modo, però... Velocemente, Guglielmo, ascoltatore Guglielmo, oggi ho dato poco spazio al pubblico, ma siccome diamo elementi inediti, è inutile parlare chi sa le cose, quelle che ufficialmente sono passate, trapelate dai mezzi di informazione. Cosa deve dire Guglielmo? Sì, buongiorno. Io penso che abbiate dimenticato un passaggio fondamentale. Non è dimenticato, non è che si può dire tutto. Non abbiamo parlato di una cosa, sì. Sì, che no, è la seduta spiritica di Prodi, sì. Scusate se è poco, perché sì. Mi sembra... Non so, è stata coperta da un pietoso silenzio, una delle più pazzesche buffonate. Certo, una grande barzelletta, ma è talmente scontata. Allora, Alessandro Forlani, riassumiamo questa storia della seduta spiritica. Romano Prodi con altri professori, fra l'altro, in questo momento sarà l'ultima cosa che vorrebbe, no, per Prodi essere bipartisan, non c'era soltanto uno di sinistra come Prodi, c'era anche uno di destra come Baldassarri. Comunque, vabbè. E fanno questa seduta spiritica. Gli ectoplasmi non guardano in faccia, no, nessuno. Infatti. E escono da questa seduta spiritica questi tre nomi: Gradoli, Viterbo, Bolsena. Loro dicono di aver evocato lo spirito di Giorgio La Pira. Certo, era lì. E vanno al Viminale, anzi proprio Prodi viene incaricato di andare al Viminale con questo biglietto con su scritto Gradoli. Il Viminale ordina una perquisizione nel comune di Gradoli, che era in provincia di Viterbo. Quindi seguono, diciamo, letteralmente queste tre parole, no? E non vanno invece a via Gradoli, dove invece appunto il 18 di aprile, dove erano già stati il 18 di marzo, diciamo due giorni dopo il sequestro, qualcuno aveva bussato a quella porta all'interno 11 di via Gradoli 96. Non aveva aperto nessuno e se ne erano andati così tranquillamente. E il 18 di aprile invece questo appartamento viene allagato, come si è detto, non si sa da chi. Filippo Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno. Filippo Ceccarelli, nostro amico giornalista Repubblica, ha scritto la prefazione del libro di Forlani citando Guy Debord, ma in realtà ascoltando la rievocazione, la seduta spiritica, bisogna citare Alvaro Vitali, Bombolo e cose del genere. È uno degli aspetti più paradossali, forse, che è passato nella vulgata più banalmente all'orecchio di tutti, però quello che abbiamo detto questa mattina, caro Filippo, in maniera così serrata e così articolata non l'aveva mai detto nessuno. No, diciamo, il caso Moro rappresenta proprio un rito di passaggio, cioè una realtà che si trasforma e che fa essere stabilisce un confine, un prima e un poi. Questo spiega anche perché tutti noi che eravamo lì a lavorare, oppure che lo ricordiamo, ricordiamo esattamente cosa facevamo in quel momento quando Moro è stato rapito, oppure che cosa era attorno a noi quando si è saputo che era stato ritrovato il corpo, eccetera. Questo è, diciamo, in qualche maniera segna proprio il transito, la soglia, e questa vicenda qua, come tutte le soglie, io penso alla morte, all'assassinio di Mussolini, oppure anche a quello di Pasolini, per dire una cosa che è diversa, che c'entra meno con la storia politica, eccetera, però costituisce, si porta appresso un che di misterioso, ecco, e questo è come se il momento nel quale avvengono questi eventi così decisivi ai fine proprio della vita di un intero paese, non si sappia bene. Ma come ti spieghi oggi, però, Filippo, che l'atto di profanazione che stiamo compiendo sul rituale di passaggio non desti nessuno scalpore? Questa mattina di Moro non gliene importa assolutamente nulla a nessuno. Sfoglia i giornali. Sì, ha fatto Pietro Grasso una dichiarazione di circostanza, fine, così, tanto per ricordarlo. E viene fuori un così importante, così articolato panorama di compromissioni, di compromessi, di situazioni strane. O perché sono tutti morti, non è più rimasto nessuno vivo, forse soltanto il sottosegretario Mazzola. Oh, ma è roba passata. Questa mattina sono altri problemi. Beh, sono 35 anni, quindi in qualche maniera l'alternarsi delle generazioni fa sì che queste vicende rimangano in qualche maniera un po' cristallizzate, no? Però il grande vantaggio è che in realtà, e questo libro lo dimostra, è che le vicende in realtà poi più si allontanano nel tempo e più riacquistano una loro chiarezza, un loro nitore, nel senso specifico. E qui Alessandro Forlani è stato bravissimo a ricostruire tutto quanto, a seguire tutte le piste, a metterle quasi sullo stesso piano, no? L'una, quella buffa insieme con quella seria, eccetera, per poterle poi cogliere e riannodare. Filippo, so però che poi tu... al dunque. Sì, su questo terreno non si arriva a nulla. Ma su questo terreno so che tu mi puoi seguire. Trovi che non ci sia qualcosa di fatale nel fatto che Alessandro Forlani ieri era sulle pagine di tutti i giornali del mondo perché il Papa ha carezzato il suo cane, che era il giorno del rapimento Moro? Oh, beh, certo, è un segno molto potente. Io, naturalmente, come di fronte ai segni, non riesco bene a interpretarlo, però sento che è una cosa che in qualche modo, almeno a me, è abbastanza emozionato, proprio perché era quel giorno. Grazie là. Filippo Ceccarelli, grazie Paolo Cucchiarelli, grazie Alessandro Forlani, autore della Zona Franca, che presenteremo domani pomeriggio a Roma.